Capitolo 11. Non sono al corrente di tutte le circostanze che condussero ad abbandonare la scelta di Lille per il soggiorno delle Bronte sul continente. Fin dal primo momento Bruxelles aveva esercitato una forte attrazione su Charlotte. L'idea di scegliere quella città di preferenza a qualsiasi altra era stata accantonata solamente in seguito a informazioni negative circa l'efficienza delle scuole. Un ecclesiastico che viveva a poche miglia da Haworth ed era cognato del cappellano dell'ambasciata d'Inghilterra nella capitale belga, conosceva Mr. Bronte e chiese alla sorella, Mrs. Jenkins, di informarlo direttamente. Questa signora, dopo parecchie indagini scoraggianti, finalmente sentì parlare di una scuola che sembrava rispondere a tutti i requisiti desiderati. Viveva a Bruxelles una signora inglese che era stata a lungo in contatto con la famiglia degli Orléans, partecipando agli alti e bassi delle loro vicende. Quando la principessa Luisa aveva sposato Re Leopoldo I, l'aveva accompagnata nella capitale belga in qualità di lettrice. La nipote di questa signora veniva educata nel pensionato di Madame Heger e la nonna, soddisfatissima dell'educazione che vi riceveva, diede a Mrs. Jenkins il nome dell'istituto facendone grandi lodi. Di conseguenza fu deciso, purché la retta fosse adeguata, di mandarvi Charlotte ed Emily. Monsieur Heger mi informa che, avendo ricevuto una lettera di Charlotte piena di ansia e di desiderio, lui e sua moglie si dissero: si tratta delle figlie di un pastore inglese dal reddito modesto. Ansiose di imparare per poter insegnare a loro volta, per esse è di grande importanza evitare il rischio di incorrere in spese addizionali. Indichiamo una retta globale che includa ogni cosa. E così fecero. L'accordo fu raggiunto e le Bronte si prepararono a lasciare la loro contea natale per la prima volta, se si eccettua il triste, memorabile soggiorno a Cowan's Bridge da piccole. Mr. Bronte decise di accompagnare le figlie. Mary e suo fratello, che erano esperti di viaggi all'estero, dovevano far parte della comitiva. Charlotte vide Londra per la prima volta nei 2 giorni che vi si fermarono e, da quanto accenne in una sua lettera successiva, credo che tutti quanti presero alloggio alla Chapter Coffee House, Paternoster Row, uno strano antiquato ostello del quale avrò occasione di parlare più avanti. Mr. Bronte, una volta a Bruxelles, accompagnò le figlie in Rue d'Isabelle e pernottò una sola notte in casa di Mr. Jenkins, tornando subito alla sua selvaggia parrocchia nello Yorkshire. Quale contrasto con questa deve avere presentato la capitale belga agli occhi delle 2 giovinette che vi iniziavano il loro soggiorno. Soffrivano acutamente per ogni contatto estraneo o insolito, erano lontanissime dalla tanto amata canonica, dalla così cara brughiera che si estendeva a perdita d'occhio, ma un'invincibile volontà fu il loro grande sostegno. Di Emily, Charlotte disse: dopo i 20 anni, avendo in passato studiato da sola con diligenza e con perseveranza, venne con me in un istituto sul continente. Una stessa sofferenza, uno stesso conflitto ne risultarono, acutizzati dal suo retto spirito eretico e inglese che insorgeva alle manifestazioni di cortese gesuitismo che improntavano il sistema straniero e romano. Come già le era accaduto altrove, sembrò sul punto di soccombere, ma questa volta si riprese con indomabile fermezza. Pensò al suo precedente fallimento con vergogna e rimorso e prese la risoluzione di vincere, ma la vittoria le costò cara. Non conobbe un momento di felicità finché non fu di ritorno nel remoto villaggio inglese, nella vecchia canonica, sulle desolate colline dello Yorkshire, riportando con sé la conoscenza del francese duramente conquistata. Volevano imparare, erano venute per questo, l'avrebbero ottenuto. Quando avevano una precisa difficoltà da sormontare, dimenticavano se stesse. In tutte le altre circostanze erano disperatamente timide. Mrs. Jenkins mi disse che nei primi tempi le invitava a trascorrere a casa sua le domeniche e le vacanze, finché, essendosi accorta che in quelle visite provavano più disagio che piacere, non le sollecitò più. Emily pronunciava appena qualche monosillabo. Charlotte a volte si svegliava e parlava bene, con eloquenza, su dati argomenti, ma prima che la lingua le si sciogliesse si girava e rigirava sulla sedia in modo da nascondere quasi completamente il viso alla persona a cui si rivolgeva. Eppure vi era molto in Bruxelles atto a far vibrare nella sua potente immaginazione una corda pronta a rispondere. Finalmente vedeva qualcosa di quel grandioso mondo antico che aveva sognato. Gaie e folle erano passate lungo i secoli per quelle stesse vie, seguendo il variare della moda, così come ora le passava accanto una folla animata. Ogni pietra aveva un'autentica storia da narrare, risalendo fino all'età favolosa, quando Ian e Jannica, il gigante e la gigantesca aborigeni, guardavano oltre un muro alto 40 piedi, là dove oggi corre il tracciato della Rue Villahermosa. I nuovi arrivati che li avrebbero scacciati dal paese dove erano vissuti dal diluvio in poi. La solenne cattedrale di Saint-Gudule, le sacre pitture, le imponenti cerimonie della chiesa romana facevano sulle ragazze una profonda impressione, al confronto dei nudi muri e dello spoglio culto della chiesetta di Haworth. L'edificio stesso che occupavano in qualità di studentesse nel pensionato di Madame Heger aveva il suo corteo di ricordi, splendide ombre che sfilavano in continua processione di fantasmi per le stanze antiche e lungo i viali ombrosi del giardino. Deviando un poco dall'odierno splendore della Rue Royale, vicino alla statua del generale Belliard, si apre una larga gradinata che, con quattro rampe, conduce alla Rue d'Isabelle. I comignoli delle sue case sono sotto il livello dei piedi di chi guarda dall'alto del primo gradino. Giunti in fondo, ci si trova di fronte a una vasta, vecchia casa, con sul retro uno spazioso giardino che si estende sulla destra, chiuso da un muro dal quale sporgono grandi rami d'albero che ombreggiano le basse casette rustiche che vi sono addossate. Col loro aspetto antiquato e uniforme, fanno pensare alle case per indigenti a carico della comunità, così frequenti in una qualsiasi piccola città del contado inglese. Sembra che Rue d'Isabelle, negli ultimi 3 secoli, non sia stata toccata dalle innovazioni edilizie, eppure vi guardano direttamente dall'alto le finestre aperte sul retro dei grandi palazzi moderni della Rue Royale, costruiti e ammobiliati all'ultima moda di Parigi. Nel XIII secolo la Rue d'Isabelle veniva chiamata Fossé aux Chênes. I canili per i veltri ducali occupavano l'area dove oggi sorge il pensionato di Madame Heger. Poi un ospedale, nell'antica larga accezione della parola, aveva preso il posto del canile. I senza tetto, i miserabili, forse i lebbrosi, erano ospitati in quel sito bene appartato dai confratelli di un ordine religioso. Poi l'antico fossato di difesa era stato colmato e vi erano state messe a dimora piante da giardino e alberi da frutto. Avevano frequentato quel luogo le aristocratiche compagnie degli arcieri, ai cui membri prima dell'ammissione veniva richiesta la dimostrazione di appartenenza alla nobiltà. E dopo dovevano giurare solennemente che nessun altro passatempo o esercizio fisico avrebbe trovato posto nel loro tempo libero, che doveva essere interamente dedicato alla nobile arte del tiro con l'arco. Una volta all'anno si svolgeva una grande gara sotto il patronato di un qualche santo. Al campanile della cui chiesa veniva fissato l'uccello o l'immagine di esso che doveva essere colpito dal vincitore. Costui riceveva il titolo di re dei balestrieri e lo manteneva per tutto l'anno successivo. Riceveva una decorazione ornata di gemme di cui aveva il diritto di fregiarsi per 12 mesi, dopodiché doveva restituirla alla corporazione che lo rimetteva in palio. I familiari di colui che nel corso dell'anno fosse venuto a morte avevano il dovere di far dono della decorazione alla chiesa dedicata al santo patrono della confraternita, sostituendola con una di uguale valore da consegnare al sodalizio che la rimetteva in palio allo spirare del tempo stabilito. Questi nobili arcieri del Medioevo costituivano una specie di guardia armata del potere costituito e, in caso di contesa, quasi invariabilmente prendevano le parti dell'aristocrazia. Le lotte civili erano frequenti nelle città fiamminghe, perciò essi erano protetti dalle autorità e ottenevano senza difficoltà l'uso di luoghi adatti e ben riparati per le loro esercitazioni. Finirono così per occupare permanentemente l'area dell'antico fossato, prendendo possesso del vasto frutteto dell'ospedale che si estendeva tranquillo e soleggiato al piede dei bastioni. Ma nel XVI secolo si rese necessaria l'apertura di una via attraverso il terreno d'esercitazione degli arbaletriers du Grand Serment e perciò, dopo molte trattative, la compagnia fu indotta a rinunciare ai suoi privilegi territoriali dall'amatissima infanta Isabella, lei stessa membro della consorteria, che avendo centrato il bersaglio era stata regina nel 1615, la quale concesse molti privilegi ai balestrieri, D'altra parte la città, che da tempo desiderava l'apertura di quella via che costituiva una scorciatoia per la cattedrale di Saint-Gudule, la ricompensò dando il suo nome alla nuova arteria. Come indennizzo per i balestrieri, una casa grandiosa fu costruita e messa a loro disposizione nella nuova Rue d'Isabelle. Di forma quadrata, essa sorse di fronte al terreno dove un tempo si esercitavano. In quella casa si tenevano le splendide feste del grande giuramento dei balestrieri. L'arciere capo vi dimorava tutto l'anno per essere sempre disponibile a dare ascolto a qualsiasi membro della consorteria che ricorresse a lui a venirgli in aiuto. Il grande salone veniva anche utilizzato per i balli di corte e le varie feste, quando gli arcieri non lo occupavano. L'infanta fece costruire altre case più piccole nella nuova via che portava il suo nome, destinate alla sua guardia nobile e alla sua guardia borghese, una per ciascuno dei membri, alcune delle quali sono ancora in piedi e fanno pensare, come ho detto più su, alle case dei poveri da noi in Inghilterra. La grande casa quadrata oggi è il pensionato Heger, il salone spazioso, un tempo utilizzato per i balli arciducali, dove i bruni gravi spagnoli si radunavano con la bionda aristocrazia delle Fiandre e del Brabante, oggi è la sala studio delle educande. C'è tutto, compresa l'armeria degli arcieri, ma ogni cosa ha una diversa sistemazione. Madame Heger era aiutata dal marito nell'impegno di impartire l'istruzione. Questi era un uomo gentile, saggio, buono e religioso, di cui sono lieta di aver fatto la conoscenza. Egli mi ha messa a parte di alcuni particolari interessanti, tratti dai ricordi suoi e della moglie, circa il soggiorno delle due ragazze Bronte a Bruxelles. Non gli era mancata l'opportunità di osservarle, poiché era lui che dava lezioni di francese e di letteratura. Trascrivo un brano della lettera che mi ha scritto una signora francese residente a Bruxelles per dare un'idea della grande considerazione in cui è tenuto. Non conosco personalmente Monsieur Heger, ma so che pochi caratteri sono tanto nobili, tanto ammirevoli come il suo. È uno dei più zelanti membri della locale confraternita di San Vincenzo di Paola, di cui ti ho già parlato, e non contento di servire i poveri e gli ammalati che gli sono affidati, dedica loro anche le serate. Dopo una giornata tutta presa dai doveri della sua professione, raduna un gruppo di bisognosi e di operai e fa loro scuola, senza richiedere alcun compenso, e trova modo di farli divertire mentre li istruisce. Questa sua dedizione ti farà chiaramente capire quanto Monsieur Heger sia religioso. A modi franchi e avvincenti si fa voler bene da tutti quelli che lo avvicinano, specialmente dai bambini. Ha la parola facile, possiede un alto grado di eloquenza, buon senso e cuore. Non è scrittore. Uomo pieno di zelo e di coscienza elevata, si è dimesso poco tempo addietro dall'incarico onorifico e lucrativo di prefetto agli studi perché non ha potuto far introdurre nel programma scolastico, come aveva sperato, l'insegnamento religioso. Madame Heger l'ho incontrata una sola volta. Vi è in lei qualcosa di freddo e di compassato che attira poco. Credo però che le educande l'apprezzino e le vogliano bene. Quando Charlotte ed Emily Bronte vi entrarono nel febbraio 1842, nel pensionato erano ospitate da 80 a 100 fanciulle. Monsieur Heger dichiara che non sapevano assolutamente nulla di francese. Io pensavo invece che ne sapessero tanto o tanto poco, quanto basta per farsi capire come una qualsiasi ragazza inglese che, senza essere mai stata in Francia, ne ha imparato la pronuncia e le espressioni idiomatiche da un insegnante della sua stessa terra. Le due sorelle si stringevano l'una all'altra, tenendosi lontane dal branco delle felici, estroverse, ben relazionate fanciulle belghe che, da parte loro, trovavano le nuove compagne inglesi selvatiche, spaventate, vestite secondo una strana moda insulare. Emily, anni prima, si era incapricciata della moda, brutta e assurda, perfino quando era stata attuale, delle maniche a sbuffo sulla spalla, e le era rimasta persistentemente fedele anche dopo che la voga era completamente passata. La sottana del vestito non accompagnava nessuna curva del corpo, non era graziata da alcuna piega, pendeva lunga e dritta sulla figura di noccolata. Lei e sua sorella non rivolgevano la parola ad alcuno se non per necessità, erano in preda a troppo ardenti pensieri e alla dolorosa nostalgia dell'esule per sentirsi disposte alla spensierata conversazione e agli allegri giochi delle educande. Monsieur Heger, durante le prime settimane della loro residenza a Rue d'Isabelle, si era limitato a osservarle. Si era reso conto che, dato il loro carattere strano e la loro eccezionale intelligenza, non poteva adottare il modo con cui solitamente insegnava il francese alle ragazze inglesi. A quanto pare, considerava il talento di Emily superiore a quello di Charlotte. La mente di Emily era rigorosamente logica, sapeva portare avanti la discussione con una coerenza insolita anche nella maggior parte degli uomini e addirittura sorprendente in una donna. A intaccare quel dono eccezionale interveniva una volontà caparbiamente tenace, fino al punto di renderla ottusa. Nessun ragionamento valeva se veniva messo in discussione un suo desiderio o il punto di vista personale su quanto fosse giusto o no. Avrebbe dovuto nascere uomo, diventare un grande navigatore, disse Monsieur Heger parlando di lei. La sua potente facoltà di raziocinio avrebbe dedotto nuove sfere di conoscenza da quelle antiche, e la sua forte, imperiosa volontà avrebbe vinto ogni opposizione, ogni difficoltà, non avrebbe smesso l'indagine fino all'ultimo giorno della sua vita. In lei la forza dell'immaginazione era tale che nello scrivere una storia la sua visione dei personaggi e delle scene sarebbero stati così vividi, rappresentati con tanta forza, sostenuti da un'argomentazione così serrata, da imporsi al lettore mettendone a tacere una più equilibrata percezione della realtà. Ma ella appariva egoista ed esigente, confrontata con Charlotte, sempre così generosa, così dichiara Monsieur Heger, che nella sua ansia di procurare soddisfazione alla sorella minore le permetteva di esercitare un'inconscia tirannia. Dopo essersi consultato con la moglie, Monsieur Heger informò le Bronte della decisione a cui era giunto. Avrebbe accantonato l'insegnamento di una lingua con lo studio della grammatica e del vocabolario, procedendo con un metodo simile a quello attuato da lui con le più mature delle sue alunne. Si proponeva di leggere loro alcuni dei capolavori della letteratura francese, quali la poesia di Casimir de Lavigne sulla morte di Giovanna d'Arco, alcuni brani di Bossuet, la traduzione dell'ammirevole lettera di Sant'Ignazio ai cristiani cattolici romani nella biblioteca scelta dei padri della Chiesa, per poi, dopo aver prospettato loro l'insieme del testo, analizzarlo punto per punto con loro, facendo risaltare dove ciascun autore eccelleva e dove invece era in difetto. Data la loro pronta rispondenza a tutto quanto era intellettuale, raffinato e nobile, le giudicava capaci di percepire il tono particolare di uno stile e di esprimere le loro opinioni in proposito. Dopo aver esposto il suo piano, attese la risposta. Emily parlò per prima e disse che non vedeva come ne potesse derivare un risultato positivo. Inoltre, adottandolo, correvano il rischio di perdere ogni originalità di pensiero e di espressione. Era pronta a dimostrare il suo punto di vista, ma Monsieur Heger non aveva tempo di fermarsi a discutere. A questo punto parlò Charlotte. Anche lei era incerta sul buon risultato di quel piano, ma era pronta ad accettare il suggerimento di Monsieur Heger, sentendosi in dovere di obbedirgli, visto che era sua allieva. A questo punto, prima di parlare del risultato che ne sortì, mi sembra opportuno stralciare parte di una lettera che ci fa conoscere le sue prime impressioni sulla nuova vita che conduceva. Bruxelles, maggio 1842. Charlotte scrive: «Ho compiuto 26 anni circa 2 settimane fa, e benché già matura, sono ancora una scolara, e tutto considerato soddisfattissima di questa condizione. In un primo momento mi è sembrato assai strano sottomettermi all'autorità invece di esercitarla, obbedire agli ordini invece di darli, ma questo stato di cose mi piace. Vi sono ritornata con la stessa avidità con cui una mucca, dopo essere stata mantenuta per lungo tempo a fieno, ritorna a pascolare sull'erba fresca. Non ridere di questa similitudine. A me riesce molto naturale sottomettermi e del tutto ostico comandare. Questo dove mi trovo è un educandato affollato. Vi sono circa 40 esterne, ossia educande che vi trascorrono solamente la giornata, e 12 interne che vi passano anche la notte. Madame Heger, la direttrice, è una signora in cui constato esattamente la stessa mentalità e la medesima levatura intellettuale di Miss... Penso che le asperità del carattere siano alquanto smussate perché non è stata delusa dalla vita e in conseguenza inacidita. Per dirla chiaramente, è una donna sposata, invece di essere una zitella. Vi sono inoltre 3 insegnanti, Mademoiselle Bianche, Mademoiselle Sophie e Mademoiselle Marie. Le 2 prime non si segnalano in niente. Una di loro è una zitella stagionata e l'altra lo diventerà. Mademoiselle Marie ha talento e originalità, ma le sue maniere sono scostanti e arbitrarie, tanto che, eccetto io ed Emily, tutte le educande le sono sue nemiche giurate. Per insegnare le varie materie del programma vengono da fuori ogni giorno non meno di 7 professori che curano il francese, il disegno, la musica, il canto, lo stile, la matematica e il tedesco. Tutti quanti nell'educandato sono cattolici, eccetto noi due, un'altra ragazza e la governante dei figli di Madame, un inglese che occupa una posizione tra cameriera personale e bambinaia. La diversità del paese di appartenenza e della religione traccia una larga linea di demarcazione tra noi due e tutte le altre. Siamo completamente isolate in mezzo a un numeroso gruppo di estranee, eppure non ho mai l'impressione di sentirmi a disagio. Le condizioni di vita qui, paragonate a quelle di una governante, sono deliziose, perfettamente congeniali alla mia indole. Il tempo è tutto occupato, passa troppo in fretta. Fino ad oggi, tanto io quanto Emily abbiamo goduto di buona salute e perciò ci è riuscito di lavorare bene. Di qualcuno non ti ho parlato ancora. Si tratta di Monsieur Heger, il marito di Madame. È professore di retorica, uomo di grande intelligenza ma di temperamento collerico, perciò pronto all'irritazione. In questo momento ce l'ha con me perché ho fatto una traduzione, secondo lui, poco corretta. Non me lo ha detto a voce. Ha scritto il giudizio con due parole tracciate in margine del mio lavoro e mi ha chiesto, con una breve frase pronunciata in tono severo, come mai lo svolgimento dei temi mi riusciva meglio delle traduzioni. Ha aggiunto che a lui questa cosa sembra inspiegabile. Il tutto dipende dal fatto che alcune settimane fa, in uno scatto d'ira, mi ha proibito di far uso del vocabolario e della grammatica per tradurre in francese difficilissimi brani inglesi. Questa interdizione rende il compito piuttosto arduo e a volte sono costretta a intercalare una parola nella nostra lingua che gli fa quasi uscire gli occhi dalla testa. Emily e lui non vanno assolutamente d'accordo. Emily lavora come un cavallo da carico e deve lottare con grandi difficoltà, ancora maggiori di quelle che devo affrontare io. A vero dire, ci stiamo accorgendo che chi viene in una scuola francese per esservi istruito, se non vuol perdere moltissimo tempo, dovrebbe acquistare in precedenza una buona conoscenza della lingua. I programmi sono concepiti in funzione delle studentesse francesi e perciò non sono adatti alle straniere. E in questi istituti non contemplano l'eventualità di un qualche cambiamento nell'andamento dei corsi per adeguarli a una o due ragazze venute dall'estero. Suppongo che le poche lezioni private che Monsieur Heger si è offerto di darci debbano essere considerate come un grande favore e mi rendo conto che hanno già suscitato molto dispetto e gelosia nell'ambiente scolastico. Te la prenderai con questa lettera accusandola di essere corta e arida. Vorrei dirti centinaia di altre cose, ma non ne ho il tempo. Bruxelles è una città bella. I belgi detestano gli inglesi. Il loro moralismo tutto esteriore è più rigido del nostro. Allacciarsi il busto senza prima coprirsi il collo con un fazzoletto corrisponde a dar prova di disgustosa indelicatezza. L'accenno alla severa proibizione di Monsieur Heger di far uso del vocabolario e della grammatica deve essere riferito, secondo me, all'epoca in cui egli aveva deciso di adottare con le Bronte un nuovo metodo di insegnamento della lingua francese, sperando di farne loro afferrare l'essenza e il ritmo con l'orecchio e col cuore, a mano che i suoi più nobili accenti penetravano in loro, accantonando il minuzioso studio delle regole grammaticali. Questa soluzione mi sembra un ardito esperimento da parte del maestro, ma certo egli conosceva il terreno in cui operava e la stesura di alcuni compiti di Charlotte dimostrano che non si era ingannato. Non so resistere alla tentazione di illustrare questa stagione culturale ricorrendo a una conversazione avuta con Monsieur Heger che mi ha spiegato in che modo formò lo stile delle sue alunne e accennato a un elaborato di Charlotte postillato in margine da lui. Mi disse che dopo circa 4 mesi del loro soggiorno a Bruxelles aveva letto alle due sorelle il celebre ritratto di Mirabeau scritto da Victor Hugo, ma nella sua lezione si era limitato a mettere in rilievo quanto riguardava Mirabeau, oratore. Aveva poi analizzato lo stile dell'autore criticandone l'esagerazione concettuale e lodandone le belle sfumature espressive. Le aveva poi congedate, dando loro il compito di tracciare a loro volta in francese un ritratto dello stesso genere, scegliendo a volontà il personaggio. Lasciava sempre libertà di scelta su questo punto perché, mi disse, prima di mettersi alla scrivania per tracciare un ritratto bisogna avere in proposito pensieri e sentimenti. Non posso sapere quale personaggio vi ha stimolato la mente e il cuore, questo è affare vostro. Charlotte scelse Pietro l'eremita e scrisse sul personaggio una lunga analisi che Monsieur Heger si limitò a postillare con alcune osservazioni marginali, quali per esempio: inutile scrivere che non potrebbe mai realizzare, dopo aver detto che erano illusioni. Dal punto di vista della struttura grammaticale e della lingua, non trovò da fare osservazioni. Emily, da parte sua, scelse di descrivere Harold alla vigilia della battaglia di Hastings e, a mio parere, il suo elaborato superò quello di Charlotte dal punto di vista della forza descrittiva e dell'immaginazione ed è allo stesso livello dal punto di vista della lingua. Considerando la scarsa conoscenza del francese con cui erano giunte a Bruxelles in febbraio, ricordando che scrivevano senza l'aiuto di un dizionario della grammatica, si trattò davvero di un risultato apprezzabile. I progressi fatti da Charlotte nella scorrevolezza e grazia dello stile un anno più tardi sono ancora più notevoli. Quando l'argomento della descrizione era lasciato al suo arbitrio, spesso sceglieva personaggi o scene dell'Antico Testamento, col quale era particolarmente familiare. Il pittoresco e il colore delle scene, se così posso esprimermi, la maestà e la vastità delle narrazioni di quel grande libro avevano lasciato in lei una profonda impronta. Per far uso di un'espressione di Monsieur Heger, era nutrita di Bibbia. Dopo aver ascoltato la lunga poesia di Casimir de la Vigne su Giovanna d'Arco, scelse di svolgere per conto suo la visione e la morte di Mosè sul Monte Nebo. Nel prendere visione di questo suo elaborato, fui colpita da alcune annotazioni di Monsieur Heger. Dopo aver esposto in modo pacato e semplice le circostanze che spingono Mosè a prendere congedo dagli israeliti, lascia libero il campo all'immaginazione e dipinge con nobile enfasi il glorioso avvenire che attende il popolo eletto, che volgendo lo sguardo verso la terra promessa ne conosce con profetica visione la fertilità. Ma prima di completare la smagliante descrizione, la interrompe per discutere fra sé e sé i dubbi che la critica ha ripetutamente espresso circa i miracoli raccontati dall'Antico Testamento. A questo punto, Monsieur Heger annota: quando scrive, deve per prima cosa esporre il suo punto di vista in forma fredda, prosaica. Dopo aver lasciato le briglie sul collo all'immaginazione, non la freni bruscamente davanti al muro della ragione. Giungendo alla visione di Mosè, Charlotte dice che egli scorge nella pianura sottostante fanciulle inghirlandate di fiori intente a guidare le greggi verso i pozzi al cader della sera. E qui il maestro ricorda all'alunna che bisogna attenersi a un minimo di verosimiglianza. Dall'altitudine in cui si trova, Mosè può scorgere montagne e pianure, gruppi di fanciulle e branchi di bestiame, ma non i particolari del vestiario né gli ornamenti del capo. Quando ebbero fatto ulteriori progressi, Monsieur Heger fece un passo avanti nel programma, seguendo un insegnamento più sintetico. Leggeva loro resoconti diversi di un singolo personaggio o su un unico fatto variamente interpretato, sottolineando i punti concordanti e quelli discordanti. Là dove discordavano, risaliva all'origine della differenza interpretativa, inducendole a esaminare a fondo la posizione e il carattere di ogni singolo scrittore per vedere come questi dati avevano influito su quanto sembrava loro essere la verità. Per esempio, prendiamo Cromwell. Leggeva loro la descrizione che ne faceva Bossuet nell'orazione funebre della regina d'Inghilterra. Faceva notare che vi era considerato unicamente dal punto di vista religioso, quale strumento nelle mani di Dio ordinato ai di lui fini. Poi faceva loro leggere le pagine di Guizot, sottolineando come, agli occhi di costui, Cromwell era stato dotato di assoluto libero arbitrio, ma indirizzato unicamente alla ricerca del proprio interesse. Mentre Carlyle lo considerava animato da un forte coscienzioso desiderio di compiere la volontà divina. Finalmente attirava la loro attenzione sul fatto che i partigiani del re, da una parte, e i membri del Parlamento dall'altra, avevano ciascuno una diversa opinione personale del grande protettore, e da questi giudizi contrastanti chiedeva loro di setacciare e radunare gli elementi della verità e ricavarne un insieme coerente. Questo genere di esercizio deliziava Charlotte, stimolava la sua facoltà di analisi, che era straordinaria e ben presto vi eccelse. Tutte le volte che le Bronte potevano essere nazionaliste, si affermavano come tali, con lo stesso tenace attaccamento alla patria che le faceva soffrire intensamente della lontananza da Haworth. Fra l'altro erano protestanti fino al midollo delle ossa, non solo nella loro fede religiosa, anche se preminentemente in essa. Per quanto Charlotte fosse commossa dalla lettera di Sant'Ignazio, della quale ho fatto cenno precedentemente, voleva che fosse riconosciuto una uguale dedizione a un motivo similmente elevato ai missionari della Chiesa anglicana, inviati a faticare e a perire sulle coste avvelenate dell'Africa, e scrisse in imitazione la lettera di un missionario della Sierra Leone, Africa. Questi suoi sentimenti traspaiono dalla seguente lettera. Bruxelles, 1842. Considero assai dubbia la prospettiva di un mio ritorno a settembre. Madame Heger ha proposto a Emily e a me di trattenerci qui altri 6 mesi. Vuole licenziare l'attuale insegnante d'inglese, mettendo me al suo posto, e impiegare Emily durante una parte del giorno a dar lezioni di musica a un certo numero di educande. In cambio, potremmo continuare lo studio del francese e del tedesco e saremmo completamente mantenute senza sborsare un centesimo. Naturalmente non ci verrebbe corrisposto alcuno stipendio. La proposta è amichevole e gentile, in una grande città egoista quale Bruxelles, in una scuola importante che accoglie circa 90 alunne tra convittrici ed esterne, implica un interesse nei nostri confronti che chiede gratitudine in contraccambio. Sono propensa ad accettare. Tu cosa ne pensi? Non nego che in certi momenti vorrei essere in Inghilterra e che la nostalgia di casa mi assale, ma fino ad oggi sono andata avanti con cuore valoroso. Ho vissuto con piacere a Bruxelles perché vi sono stata occupata a tempo pieno in attività che mi piacciono. Emily sta facendo rapidi progressi in francese, in tedesco, nella musica e nel disegno. Monsieur e Madame Heger incominciano a riconoscere quanto vi è di valido nel suo carattere, nonostante la sua singolarità. Se l'indole nazionale dei belgi va misurata in base a quella della maggior parte delle ragazze che frequentano la nostra scuola, è un'indole estremamente fredda, egoistica, animalesca, inferiore. Sono ribelli e i professori incontrano vere difficoltà nel tenerle a bada. I loro principi sono marci fino al midollo. Noi due le evitiamo e non è difficile, visto che siamo marchiate dal protestantesimo e dall'anglicanismo. Da noi si parla dei pericoli corsi dai protestanti nei paesi cattolici, esposti al pericolo di cambiar fede. Beh, il mio consiglio ai protestanti, tanto insensati da essere tentati di farsi cattolici, è il seguente. Attraversino il mare fino al continente. Assistano assiduamente alla messa per un certo tempo. Prestino attenzione allo stolto teatrale cerimoniale che vi si svolge. Osservino l'espressione idiota e mercenaria di tutti i preti e poi, beh, se si sentono ancora inclini a considerare il papismo o altra cosa, se non una dimostrazione di infantile debolezza mentale, vi aderiscano pure. E in proposito non ho altro da dire. Considero stolte le pratiche dei metodisti, dei quaccheri e quelle delle punte estreme del basso e dell'alto anglicanesimo, ma le cerimonie del cattolicesimo romano le battono tutte. Tuttavia, lascia che ti dica che vi sono alcuni cattolici tanto buoni quanto qualsiasi altro buon cristiano, per cui la Bibbia sia un libro sigillato e assai migliori di molti protestanti.